zio, è pronto da mangiare? Prima di pranzo, lavati le mani e non salire coi piedi sui divani. Non gettare le bucce dal terrazzo. Perché? E finiscila di camminare scalzo. Ma io? Stai buono, dai, non fare il matto. Non tirare la coda di quel gatto. Yeah! E ricorda, prima di andare a scuola, di riparare l'astuccio di Nicola. Non usare da solo l'ascensore. E poi smettila di fare le tue fiori.